mi serviva una cartuccia per la stampante, c'è stata Media World, però niente, non ce l'aveva, allora sono andato via a Catalocchino, l'ho preso lì. No, il supermercato della Conad, non tutta la Conad, solo il supermercato hanno chiuso, quello è quello di via Gramsci. Tutti progettivi, no, comunque noi lavoriamo lo stesso, a me senz'altro mi mandano di nuovo a casa per 15 giorni, se chiudo, mi riposo. Sì, entro l'ordinanza dovrebbe partire entro le 48 ore, stanno valutando perché sta salendo troppo, gli ospedali sono intasati, sia a Cagliari, a Nuoro, a Rissano, a Ghilarza, a Sassari, quindi bisogna tagliare un po', e poi c'è il blocco dell'ingresso, le navi non possono più portare nessuno per 15 giorni, vediamo se riusciamo a rientrare nella norma, tutto qua. Comunque quei due supermercati sono chiusi, capito? Vabbè, io già non ci andavo la Conad, io vado sempre qua la Cobb che è vicino a casa e da loro spingo, quindi avanti Giulio, riprendi. Ok, è un problema serio, anche oggi mi vengo mai da 135-240 contagi in Sardegna, Gabù, Sassari è roba di 50-60, è una cosa incredibile, ma no, non si può andare avanti così, e prima o poi saranno costretti a chiudere per forza, perché sennò da qui i contagi aumentano continuamente, anche perché c'è certa gente incosciente che non vuole capire come la situazione, o meglio capisce ma vogliono fare gli spavaldi, o meglio i guati. Va bene, avanti Franco, hai cambiato la radio? No, non l'ha cambiata. Avanti Tony. Io c'ero ieri alla Conad di Auchan, che ho preso il cacchimela e qualche altra roba ho preso. No, non ho fatto niente, ho parlato un po' con una cassa che è una carissima mia, che abita a San Giovanni. Ma qua, già viene tutto allora. Sì, meno male, vai. Ma come avevi la mascherina io? Tony, ma non so se ti hai disinfettato le mani, perché lì i carrelli frusciano i ghiacci di valla, capito? Stai molto attento, lavati bene le mani, disinfetta pure, appunto hai detto ci avevi la mascherina, però penso che il sindaco, come pare, sta facendo la TV oggi, Antenna 1, 19:12, stava dicendo appunto che ha già mandato una comunicazione, una circolare all'amministratore delegato della Conad di Sassari per far sì che faccia appunto un richiamo generale per tutti i clienti che si servono Conad, ci sarà un appello del sindaco penso entro 24 ore, perché chi è stato a contatto con questa gente deve stare molto attento, molto molto molto attento. Non so su quanti dipendenti, più della metà, tutti positivi, tutti, e non so bene nulla, sia qui che giù a Predanieta, capito? Quindi non so cosa cacchio abbiamo deciso. Per il momento hanno chiuso tutto e stanno sanificando, e sono tutti in quarantena in attesa del tampone. Allora io ho lasciato ieri, il carrello proprio non ne ha preso perché dovevo prendere quasi niente, ho visto la frutta, l'ho preso la frutta, ho pagato la calzata e basta. Sono il scottone in macchina, me lo metto prima di entrare e poi quando esco giustamente, perché il resto me lo danno, quindi metto in tasca e poi giustamente mi spruzzo con la medicina là. E poi ho spruzzato anche sui soldi. Vabbè, ci vuole molta attenzione comunque, soprattutto ti ripeto, chi è cliente Conad santoriamente va lì, io ti ripeto, non è un supermercato che mi attiva molto, mia figlia ci andava ogni tanto, perché ci sono un po' di cose interessanti, ma io mi servo alla Cobert qua vicino a casa e all'Eurospin di via Carlo Felice. Vabbè, ok, vediamo un po' se è rientrato Franco. Capo, ho messo l'antenna diretta adesso e il segnale è ritornato, diciamo, a palla, dai. Non so, da sia, devo ricontrollare, perché non ho toccato nulla. Qualcosa è successo. Ho trovato forse tramite l'Alfalima, mi mancava segnale. C'è placettore di commutatore, sai, lineare, strumenti, ballo vario, poi ci siamo in corso qualche PL qui. Un momento a andare in corso un PL, no, infatti sei quasi 9 più 10 adesso diretto, molto molto più forte, vai Giulio. Ok, intanto saluto di nuovo Franco, perché non so se mi aveva sentito poc'anzi. Ciao Franco, salutoni. Sì, che allora, qui tutti e due i negozi, il personale è contagiato, ma caspita, hai fatto bene a dirmelo, non si sa mai che mazza a capo di andare là, ma non credo, perché anche oggi, stamattina ho fatto un po' di spesa anche qua da MD, per cui non è che serve molte cose a casa, pertanto va bene così. Avanti Franco. Capo, scusa, poc'anzi ho fatto un passaggio veloce per paura di bruciare i finali, dai. Quindi è entrato Giulio, poi che è entrato? Un abbraccione comunque Giulio, poi mi dirai come stai. Chi è entrato poi? Camino Cavazzacchi, vai. Ok, un abbraccio anche a Cavazzacchi, mi senti? Sì. Capo, e tu mi senti? Ciao Franco. Sì, alla grande. No, arrivate tutti con un ottimo segnale. Giulio, da te sono ritornato al vecchio segnale? Sì, 9.5, quasi 9.5, sì che va bene così, non c'è problema. Sì, sto bene, spero che anche tu sia bene, per cui meglio così. E mi sono appena rientrato una mezz'oretta fa, ero al policlinico, mia moglie ha avuto un intervento alla cataratta e 5 minuti di operazione e 6 ore di attesa, purtroppo. Perché hanno detto che c'era guastata una macchina, l'appuntamento era per l'una, stamattina sono rientrato dopo 6 ore, alle 6 sono rientrato praticamente, se siete puoi immaginare, comunque adesso è a posto, tutto fatto. Va bene, riprendi a fare girare, vai. Capo, lì fanno un intervento un occhio per volta, così no? Credo di sì. Ricorciamo le dita, dai, aspettiamo buone notizie. Avanti Claudio. Va bene, no, anche da me sei 9.5 è abbondante, fa prima di quasi 9, quindi c'era sicuramente qualche restrizione. Aveva pigliato il coronavirus al suo strumento. Vabbè. KK, capito Tonini, lascia tutto così com'è, non ti sta chiedendo niente, non hai bisogno di niente, quindi lascia tutto così come te, non comincia a farti venire di paratori e buddo, vai riprendi. KK, sei già poco qua, non sai gli amici, pochi amici che ho, li chiamo al telefono, quindi. Vabbè, lo so, non mi chiede niente, l'accendo quando non voglio accendere, quindi, persone sede ce ne sono poche, e vabbè. Andiamo bene, Franco, che zona sito? Sono qui in Sacro Cuore, zona molto bassa, l'antenna è anche in basso, quindi, però voi arrivate bene qua, alla grande, avanti tu. Io sono in zona San Camillo, capito? Non sono a Sassari. Mi ricordo. Non arrivi bene qua. Sicuramente abbiamo qualche canale aperto. Ti arrivo bene anch'io? 9.20, 9.5. Sì, tu sei quasi sul più del 30, quindi dovrebbe essere sui 9.20 anche tu. Capito, Claudio. Vabbè. Vediamo. Sto usando un bel poco il barocchino a Chiopionerra, quindi di solito che le farò un bel. Ok Giulio, riprendi. Ok Tony, e allora dimmi come stai a proposito, quel famoso dolore alla schiena passato? Ma cosa è passato? Poi se non mi pareggio, poi. Niente, avevo paura che lui dovesse lavorare, vediamo come so. Fa cosa mi ha depressione, aspetto, appena me la danno, guarda, me ne parlo a Cagliari, cerco questo Stefano e devo sopportare a Giovanni Luci. Basta, tanto è inutile, ho poco tempo, quindi non so, posso dedicarmi a fare molte cose. Capito giù, niente, a furia di antidolorifici e cicciani. Vabbè, abbi fede che già passa, vedrai che già passa, prima o poi, meglio prima però, anziché poi. Volevo chiedere a Franco, come mai non mi sentivi in PMR, Franco? Una o tre volte mi hai sentito e io sentivo te. No, negativo, proprio zero assoluto, non so, magari si è trattata qualcosa nell'antenna, non lo so, nelle connessioni, perché ripeto, non è diretto, però sto usando un accordatore, magari è quello che mi toglie segnale, che è molto delicata come frequenza. Eh beh sì, in effetti è così, se non trovo il varco giusto tante volte non è possibile. Vabbè dai, costruisciti un antennino, io mi sono costruito un antennino, anche se adesso non lo sto usando perché non ho modo di attaccarla al muro, diciamo, dai, con le gaffe eccetera, perché non ho le gaffe, quando esco prendo due gaffe e l'attacco anche. L'ho già provato con Claudio avanti ieri, mi ha detto che va bene, per cui sono contento così. Un pezzo di filo di coassiale ho fra e non c'è problema. Ok, avanti Claudio. Aspetta un attimo di bianco, sì, va bene, no, io ti dicevo benissimo Giulio quando l'hai provata, no, da parte mia non c'è nessun problema, vai alla grande perfettamente. Poi te ne abbiamo già parlato, di cosa devo dire io allora? Ho tolto tutte le antenne, praticamente sono già vendute, però le radio le tengono, mi capita di volerle usare, ce le ho quando sono tutte spente, le tengo spente, non è che mi stanno chiedendo niente, tanto rimangono lì, bisogna metto a vendermi tutte le radio, sì. Non venire di nappa a comprare radio, è meglio tenere tutto, si sa mai che magari capita che ne hai voglia e la usi, capito? Quando ne hai voglia la tieni spenta, oppure la accendi, come faccio io, rimango a ascolto. Non si dà niente, va bene così, ma le abbiamo comprate e le teniamo. Però le altre cose le ho tutte tolte, le cose sul tetto, minchia c'era un mare di ferro allucinante, anzi devo togliere ancora il master che è un 4 metri di tubo innocenti che fa paura, pesante, non ce la faccio, adesso appena viene Luca e ne scendiamo le antenne imballate, quando arriva il corriere vi faccio una mano e lo scendiamo dalle scale, perché l'ascensore non ci sta, ma è un bel pesante. Lo porto in garage, su non lascio più niente perché è un pericolo. È un pericolo, meglio che filare. Avanti, tu lì. Io stamattina sono andato a Mina invece per cambiarmi il dottore perché mi ha chiamato, mi ha detto stanno in pensione, se ne cerchi un altro. A Mina non me ne è fatto manco il tratto. Poi al suo dietro mi ha dato, vado su internet, clicca e clicca, c'è una signora lì a fianco, seduta, aspettando per un'altra visita deve essere. E mi ha detto, guardi, vado in farmacia, devo fare anche farmacia, spende 10 euro, ok, perché no? Sono andato in farmacia a Cava Felice perché io mi servo lì, anche se da casa mia andare lì trovo 50 farmacie ma non me ne frega niente, là mi sono trovato bene, ho una gentilezza, belle ragazze e quindi sono andato lì e mi frequento lì. Io ho pregato il fatto, tavolo là, col computer, tutto fatto, mi hanno dato l'autoressa, dice omaggio della ditta, non paga niente, grazie, e quindi mi sono sbrigato anche questo perché ho detto poi se viene coronavirus chiuderò tutto, io sono fregato senza medico, io prendo medicine e mi servono, cavolo, come il pane, e quindi là, mi sono sbrigato questa bella commissione stamattina, riprendi. Sì, no, io quello lo sapevo, che in farmacia, sì, ti prendono qualcosa dalle 5 alle 10 euro, però ne vale la pena, almeno fanno tutto loro, in un attimo te la sbrighi. Io, il mio è un po' anzianotto il medico, però non so se subentra il figlio adesso, non so se il cambio dovrò farlo lo stesso, è questo da vedere. Avanti Giulio. Ok, sì, mi devo allontanare però, perché mi hanno chiamato. Dai, io vi saluto e ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Ciao Franco, ben ascoltato per l'ennesima volta, mi ha fatto piacere. Ciao Claudio, ciao Tonino, dai devo scendere giù, mi ha chiamato mia moglie, vediamo cosa vuole. E ci sentiremo eventualmente domani se coincide. Ok, avanti qua. Sì, mi sembra di sentire qualcosa sotto, ma forse un po' di propagazione. Va bene, vai, non c'è problema. E cosa? No, cosa ti fanno entrare? Io sono andato per fare le analisi, perché sto facendo dei controlli per l'artrite. Chiamano loro, devi aspettare fuori, la mascherina, tutto, appena arrivi ti fanno, ti misurano la temperatura, vivi a tempio e poi aspetti e ti chiama, c'è la guardia, ti chiama e ti manda dove, dove devi andare, capito? Non fate entrare nessuno, è un casino. E adesso c'è questa attesa delle 48 ore per il lockdown, sarà ancora più casino. Infatti spero che non chiuda, vuol dire che le cose stanno andando meglio, ma ho sentito anch'io un aumento Sassari in una cinquantina, tutta la Sardegna a 121, 112, cioè, se mi ricordo comunque, è un bel casino, eh. Va bene ragazzi, dai, io ne approfitto, inizio a vestirmi, così mi sistemo il cane, eh. Rimango qua in ascolto, tanto sono qua giù nel giardino. Lascio tutto acceso, se ci siete dopo riprendo, ok? Franco, a te il microfono, vai. Quel Rick c'è per me. Noi capo, in primis salutiamo Giulio, un abbraccione, ben sentito anche da parte mia, faceva piacere ascoltarlo. E poi magari mi dai qualche dritta per quell'antenna che hai fatto, o tu o Claudio, dai. Avanti Tonino per i saluti a Giulio, se, sempre che sia ancora in, in online, diciamo, in aria. Ciao, ciao Giulio, Bocconetti, ci sentiamo, boccare, che cosa vuoi fare? Avanti qua. Ah, io non l'ho sentito, Giulio stava chiudendo, perdonami. Ciao Giulio, un abbraccio, alla prossima anche per te. Vai Fra. Ciao Claudio, ci sentiamo dopo, sono rientrato. Ciao, già a dopo. Vedi, dai, riprendi allora Gianni, avanti. Ehi, stavo in parlare del ricerco dell'antenna. No, che Giulio ha fatto un'antenna per il BMR, credo, credo che sia per una frequenza solo. Questa che ho fatto io è una bimanda, però non mi soddisfa molto, sicuramente non fa né una né l'altra. Come fare due antenne distinte, una per i per la U, per le U e una per le V. Franco, quelli che si è fatto io sono una telefono. K, hai capito? Gianni. Ehi, io ho capito, vai. Già va bene, già va bene. Non c'è problema. Vabbè, te lo dirà Giulio, ma c'è ancora Giulio. Ciao Giulio, buonasera. Non credo, perché l'ha chiamato la signora, quindi è dovuto correre, tra virgolette, dai. Sì, ero con la signora al telefono, mi dovevano richiamare pure. E quando parlano le donne è un casino. Non asciugare mai. Sì, ce l'ho ancora, lei. Sono ritornato un attimo a prendere qualcosa dal cassetto. Vi ho sentito. Sì, ciao Gianni, anche a te, salutoni. Sì, a me mi ha dato le misure, come Luca mi ha dato, mi ha dato le misure Luca, mi sono messo, l'ho fatta e visto che funziona, poi staremo a vedere se gli altri mi sentono. Claudio mi sentiva bene, adesso sentiamo se mi sentono anche gli altri, ma suppongo di sì. Luca Trippel mi ha dato le misure, per cui devo ringraziare lui, non c'è problema. Ok, dai, vi saluto di nuovo, dai, che adesso devo scendere, ho preso qualcosa dal cassetto e devo scendere. A dopo, eventualmente se ci siete. Va bene, ciao Giulio, ci sentiamo. Poi un giorno ci direi come è fatta a costruirla, come questo prototipo da te. E poi magari mi manda uno scherzetto, provo a farla anch'io se funziona, dai. Ok Giulio, un abbraccione ancora. Tonino, sei rientrato? No, negativo, no, a me già piace. Poi adesso ho preso anche questo analizzatore d'antenna, però bisogna imparare ad usarlo, capito? Mi pare che lo usa. E lui c'è quello grande, questo è quello cinese piccolino, questo ti dà un sacco di numeri, bisogna interpretarli come si deve, sennò piano piano ce la faremo. Oh, poco fa mi si è abbassato un segnale di portante, infatti ho staccato tutto, invece adesso mi arriva per esempio 9.30 e poi fondo scala modulato, perché questo avevo un po' tirato di svatte. E poco anche arrivava solo a 9, ho detto c'è qualcosa che non va, noi sono parte dei finali, quindi ho staccato tutto, ho messo l'antenna diretta e va di nuovo bene, quindi c'è qualcosa che va dall'apparecchio all'accordatore, alla salina che c'è in mezzo, capito? Qualcosa è successo. Ehi, l'accordatore, se c'hai un deviatore d'antenna, è sicuramente quello, perché l'ha fatto anche a me, andava a fare lo scalo. Non capisco voglia di stare partendo, ho staccato, ho cambiato tutti i cuori, gli spezzoni, tutto qua, niente da fare. E poi alla fine l'ho mandato in diretta, noi di russo, tutto di russo, è andato troppo bene. No, io non ho niente, era solo collegato alla, dall'apparato va all'alfalima, dall'alfalima va all'accordatore, e dall'accordatore all'antenna, tutto lì era. Non c'è mai il contrario, si è abbassato il segnale, quindi magari avevo stazionario, ero un po' preoccupato, ho staccato tutto, ho messo l'antenna diretta, invece non c'è niente, almeno l'apparecchio non c'è niente. Se non ho fatto così vuol dire che c'è qualche problema, qualche spezzone, interrotto. Però un commutatore d'antenna c'hai anche? No, negativo, infatti ne stavo parlando con un giorno, non ho nulla, non ho toccato nulla, boh, qualcosa è successo però. Dopo ci riprovo a collegare, vedo un po' come sono stazionari, dai. Comunque l'importante è che non ci sia niente di bruciato, almeno negli apparecchi. Non può succedere, magari come sposti, come fai, a me è successo poco, ho smontato tutto per pulire, ho messo tutto per terra, poi pian pianino me li sono tutti rimessi a posto, la radio che viene un bel, qua non è staccare un baracchino. E evidentemente ho tirato qualche spezzone, perché c'ho l'accordatore, io la T230 della Kenwood che fa anche la commutatore d'antenna, e ci sono tre cavi che vanno ai tre K praticamente. Ho acceso il 440 e la ricezione, il tubo è pure sono in posizione 1, metto in posizione 2, 430, ok, posizione 3, il 140, ok, il chiuso in presenza di ricezione, aiuto ma sarà, lo spengo, lo riaccendo, niente da fare. Gli ho detto ma che cazzo di agente, no che è tutto a posto. Ma così mi ha detto adesso tolgo la spazzone, ne metto un altro, non si sa mai. Ho messo un'altra spazzone, a posto, ripreso a funzionare tranquillamente. Non ho manco controllato quella spazzone. L'ho preso e l'ho buttato nella mano, ho staccato due PL che erano buone, poi me le dissaldo, me le pulisco, me le conservo e se la giro un po' della mondezza. Perché può capitare, capito, come tiri magari qualche filettino della carta va a finire nel puntale e ti va in corto. Sì, l'unica cosa che ho fatto le prove dell'antenna poco fa col PMR, sicuramente ho mosso qualcosa lì allora, staccando le due antenne. Ho mosso qualcosa nell'accordatore, ho fatto qualche falso contatto. E vabbè, dai, poi lo riproviamo. Ma dov'è Luca, in PMR? Sì, salutate PMR. No, sì, io mi preparo, ragazzi, dai, che sono già alle 8.25, perché poi mi metto il fornello che ho letto fa. Anch'io c'ho mia moglie che non sta bene con questi occhi, quindi mi metto di preparare io. Va bene, dai, allora vi saluto già, Saluto anche a Tonino, se è ancora al telefono. Ciao Gianni, ciao Franco, a Giulio, insomma chiunque sia in ascolto qua sul canale 10, ok? Se ci siete riprendo dopo, se no pazienza, riprendi già. Ehi, lasciate dopo la passeggiata, dai, tra poco vado anche io, non vedo mai se ci vado anche io. Ancora la passetto, mi devo rilassare ancora un po'. Ehi, vabbè, e anch'io me lo posso portare alle 8 perché è uscito anche all'ora di pranzo, però ho bisogno anch'io un po' di prendere aria, Ho bisogno un po' di prendere aria, sono tutto il giorno richiuso a casa. Adesso domani mattina c'ho questa cosa in mansarda, però prima devo andare in via Montella a prendere questo cartone, poi mi salgo su, mi sigillo tutta quella roba, la preparo, così poi lunedì quando viene Luca ne la scendiamo e si tira la borsa. Va bene ragazzi, dai, buon divertimento, a dopo se ci siete, se coincide. Vai Fra. Scappa, dai, buona serata, buona carica, buon tutto, un abbraccione a tutti e lì in famiglia. E un bocca al lupo per tutto, dai, speriamo che si risolva tutto al meglio. Vediamo un po' se è rientrato Tonino. Ciao Fra, un abbraccio ad Anna, dai, da parte di Anna, ciao. Grazie, ricambia sicuramente. Ciao, ciao. Ti prendi Gianni? Ehi, dai, mi trattengo molto, Fra, che qui. Dai, sono da bene, e scendere giù. Poi, non mangio sei gai, abilità, sono un po' più carta. Ehi, vabbè, ma... Quando sei un animale così ti devi dedicare in tutto e per tutto. poi meno male abbiamo un gatto che è abbastanza autonomo. l'ho buttato anche la casa di 19 anni, cioè abbiamo fermato dopo 19 anni, c'è molto di vecchiaia, e diciamo che è cresciuto con la mia figlia, con mia figlia, con la prima, è cresciuto giocando, la faceva giocare, si nascondeva dietro la porta qui, come passava, li saltava addosso, lì rideva, quando si divertiva. Perché fa, come dice, gli agguati fa il gatto, no? Quindi sono diventate maggiorenni assieme. E allora? Con la moto le ha scritto anche la lettera. Nella bara che gli ho fatto le ha scritto la lettera, l'ha messa dentro. Caspita, diciamo bene, sono un bel po', Non so quanto campi un gatto, ma credo che sia quasi da record. Bu. Sì, ce n'è qualcuno che campa anche 21 anni. È difficile. Titti ha sempre mangiato le scatolette gourmet e le crocchette, non voleva, il pesce non gli piaceva, la roba non le mangiava, per cui qualche cosa di carne gli dava e la mangiava, però altre cose non mangiava, molte scatolette di quelle gourmet solo voleva, se gli davi quelle da peso prendeva con la zappa e faceva quanto si finiva. Anche il nostro è così, è un po' viziato, mangia come dici tu la carne, ma devi fare pezzettini piccolini, sia la carne, non so, il cavallo, la vitella, così, o il pollo, anche il pollo mangia, però al 99% mangia sempre scatolette. Dicevano che le scatolette le facciamo lì di prima, lui ha campato 19 anni con le gourmet, io infatti gourmet a tutti quanti consiglio, perché lui ha sempre campato il corpo. Sano come un pesce. Era una femmina? No, era un maschietto, solo che mia figlia l'ha potuto chiamare Titi lo stesso. L'avevi castrato o no? Sì, era castrato, sì. Però già praticamente era diventato un bel grosso, poi era un persiano, capito? Era diventato un bel grosso, già è grosso di per sé il persiano. Questo non è enorme, penso che sia sui 4 o 5 kg, non di più. È tutto pelo, tutto scena, perché c'è una cosa che sembra, non so se è presente quei polverini che hanno quel pelo lungo, no? Che li passi nei mobili, una cosa del genere sembra. È molto peloso, quindi se dovessi bagnarlo, guai, non ci rimane più nulla. Allora, il mio era un persiano che praticamente il padre era un persiano culo, la madre invece era un persiano incrociato con l'Unione Europea, però ci aveva conosciuto del persiano la madre, infatti il mio veterinario ha detto questo è un persiano a tutti gli effetti, a 99,5% persiano. Non lo so, questo è dei gatti rossi, dai, dicono che hanno un carattere un po' difficile, infatti già è un po'... non è molto coccolone, solo quando ha fame viene, ti distrugge e basta, poi non vai a carezzarlo e è sempre un po' sfuggente. Sì, anche Titti era così, non stava in greco come certi gatti, no, si dava due carezze e poi si fastidiva e se ne andava, non era di quelli, però non so dove era coccolone, quando si coricava mia figlia se ne andava sotto le coperte e si metteva vicino ai piedi lì. Se ne stava, io come faceva a respirare sotto le coperte, poi mia moglie lo cercava da tutte le parti, non lo trovava, andava lì e lui faceva miau, come dire, sgamato miau. Mi piace infilarsi, non so, tu metti il copri di divano per non sporcarlo, non so, di peli, e lui ce ne va dietro, si infila dietro tra il divano e... però la verità, danni, proprio danni, un po' il portone, ma sempre per colpa nostra lì, che a volte l'abbiamo fatto uscire e poi alla fine è lui che vuole uscire e che ti graffia il portone. È un po' una sedia, che ormai è la sua quella lì, ma l'ha un po' rovinata la parte, diciamo, il rivestimento. Io all'inizio già grattava, si era prima attaccata alle tende, l'ho sbridato subito, ma da farmi no col dito puntato, sotto a picchiare. E poi già imparano, io non ne avevo toccato a te. Ma poi si era attaccato al cornicione della porta. E l'ho dovuto ricostruire con la resina perché me l'aveva fatto scaldare. E vabbè, qualche danno te lo fanno all'inizio, poi gli educhi e non ne fanno più. Sì, no, il resto non è molto dannaggio, dai. dai, qui è ora di preparare, un abbraccione e ci sentiamo le prossime, ok? Ehi, allora dai, ci sentiamo, ho fatto piacere, tanto entra, che non posso essere questo periodo. Ci sentiamo, buona serata, ciao ciao. Ciao ciao, alla prossima, ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto K. Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto K. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto K. 1, 2, 3, prova radio, qualcuno in ascolto, cambio, cambio. 1, 2, 3, prova. Hola. C'è qualcuno in ascolto K. Giovanna gli ho prestato a lei. Esatto, ci ha detto. Microfono a tavolo, io sto usando palmare adesso. Non va più, va bene adesso. Aspetta un attimo, due minuti. E scappa dai. Ciucucciù. Allora. Ti stai riposando? Scappa. Scusami. Sono qua, sono. Allora mi sono buciato da una tragadria. Ah, l'importante è riposarti. Poi domani già lo sai, ti tocca lavorare. Mi devi fare il culo. Già lo so, e stavolta tocca. Fare il ciucucciù. Bisogna vedere se ne ha voglia, se non c'ha mal di testa. Sì, mal di gabbo già. E buonimo l'aspirina del bottigliato. Ah beh, se così già va bene. Ciao, e tu come va? Io da una parte all'altra facendo documenti stamattina, figurati, poi devo fare il pranzo, devo fare la cena, devo lavare in terra, devo fare i piatti, quindi figurati tu. Dice esaurente, dice. Mi sto esaurendo, sì, guarda, non vedo l'ora di, se mi chiamano a lavorare in qualche posto, a costo di fare 4 ore al giorno, rientro alle 3 di sera, rientro, me ne vado al bar, mi siedo, mi pranzo, mi mangio un panino a pranzo e poi rientro a casa. Vabbè, dai, diciamo che stai facendo come lavoro, stai facendo adesso, no? Sì, come bandante sto facendo, per carità. Ma pure non basta uno, sono pure due. Lo so, infatti. E così. Prima c'avevo tempo per dire entrare a baracchino a mattina e sera, adesso sono sempre fare roba da fare, a volte vado in giro con Giovanna a fare la spesa, eccetera, eccetera, capito? Almeno sventi un pochettino la casa, esco. Capo, ma vedrà la patente Giovanna? Sì, che ce l'ha. E allora, ogni tanto ti fa aiutare da lei, ti fa aiutare, via. Che stavo dicendo l'altro giorno? Cosa hai fatto a Pudighino? Non ho capito se è Pudighino. A Bombolani, in Viaturate. Quello c'ha... c'ha la baracchina prima. Quello che ci ha detto Latti. L'ha fatto che fissa. L'ha lasciata lì all'escopo, l'ha lasciata. È stato qua. Ha detto guarda lì, mi dispiace di domani, è stato detto un coglione forte, gli ho detto. C'è il foglio di sequestro, basta andare lì e tu solo ritirare l'apparecchio, ho detto. No, non me ne frega niente, lo lascio lì, se la prendono in culo, mi ha detto, peggio per lei, gli ho detto qua, fosse stato io a posto suo, se ne è andato me la sarei ritirato. A costo di vendere, ho detto, 200 euro, o 150 euro, quell'apparecchio che avevo nuovo, gli ho detto. Gli sarebbe trovato un pochettino di soldi indietro, lui ha fatto sta sua, ha detto, faccia come vuole, ho detto, mica sono problemi miei, ho detto, noi sono i suoi. Allora, ci sono due guasti, due frate di guasti, gioco. A Marco Gatto, dalla uno che ne ha bisogno, cioè per non darle la soddisfazione. A ti piace il baracchino, figlia di Dio. Appunto, a una volta l'abbiamo sequestrato perché era senza... glielo davano subito, capito? Metteva l'avvocato, dopo una settimana aveva avuto l'apparato a casa, ma neanche, perché l'avrebbero messo dentro una sacca delle poste e l'avevano lasciato lì a casa sua, cioè lì in negozio, sequestrato ma lì in negozio. Una volta fatto il foglio di sequestro, potevano usarlo se voleva, e invece ha fatto testa sua, peggio maestro, ha detto tu vai. Adesso quello delle poste è sentato, se l'avevano ritirato e se l'avevano pure venduto, non so l'altro. Sicuro che ce l'avevano venduto lì. Sì, perché dopo che passa un pochettino di tempo se lo vendono. È appunto per quello. Se questo solo perché un apparato non omologato, capito? Basta andare all'avvocato immediatamente, no? Questo è il decreto, questo è il coso, faccio il foglio di sequestro. Avrebbe sequestrato l'apparato, sarebbe scottato lì dove lavora lui, avrebbe lasciato per un anno, un anno e mezzo dentro la sacca, poi avrebbe riaperto e l'avrebbe utilizzato per dire. E invece non deve fare, ma dire che c'è soldi da regalare, cosa vuoi dire? Perché dove va quel stato? Peggio Baeddo. Tu lo sai dove parlano loro, in quelle frequenze, quelle dove vanno loro, dove passano le bombole, queste cose. Quello fa 3 mega se vanno loro. E per sentirli come bisogna fare? Tu vi procurate uno di quegli apparecchi, quella 3 MHz, e poi si può anche modificare quell'apparato. Io l'ho modificato uno e lo sai fino a dove arriva? 999 canali già, da 23 originali. Ah, cappa. Ma ti stavo dicendo, ma va anche 27? No, 27 non ci va, fa la frequenza 43 e 23 canali e basta. Poi se lo vuoi modificare sale fino a un megahertz e qualcosa. Ah, ho capito adesso. Non me ne è mai venuto uno nativo, parecchi, non me ne è mai capitato uno. Io pensavo, perché c'hanno il coso, c'hanno il microfono, c'hanno l'MBB5, c'hanno, gliel'ho visto una volta io. E infatti, quindi avevano i tassisti quel tipo di apparato, 23 canali così com'è, adesso non ce li hanno più, non li usano più, adesso usano il cellulare, capito? Dove si andare magari su internet e buscatene uno per usi a casa tua, tanto mi era già risuona con l'antenna che c'hai. Non so che risuona, c'è quella che hanno piazzato che ti sembra una mantova turbo, quella che hanno piazzato in via Durazzi. Ma non è una mantova turbo, è simile, dai. Ci manca qualche pezzo forse. È un po' più corta di stilo, però è la stessa antenna. Sì, è vero. Ah, sono sicuramente se buono uno in occhio da stazionario un bel. Quella che c'aveva anche lineare, mi dava il lineare grosso lui. Usava lo stato me con quel lineare. Figurati. Lo sai quante volte, quando abitavo in Galizia, lo sentivo di splattere io. Lui era nei canali sotto l'uno e io nel canale normale. Ma io giocavo, cazzo, ho detto roba di abbattimento. Il controllo era in 26 MHz, era, nei 9 canali sotto. Ho preso, così, ho detto, aspetta. Ha giocato e mi sono messo a pompare io. Lo sentivo, stavo la metà, non sento niente, telefonami. Allora che impara con un lignare a pompa. Io c'avevo bevuto 2001 con le mie capate già, te lo ricordo, 600 watt. A voglia che me lo mangiavo a colazione e a pranzo a lui. Sì, che andate a capo era una cosa impressionante. Esatto, sì. Poi io, vabbè, un giorno l'avevo conosciuto tramite un amico e gli ho chiesto, ma quella parola è stato un eco che ci avevi inviaturato, che fino a fa? E mi ha sequestrato l'esco posto perché ha un apparato non omologato concessione e mi ha fatto la multa. Ed è perché tu ti tiri, ho detto, ti fai il foglio di sequestro, no, non me ne frega niente, quella fa di tirarmi. Gli ho fatto, me lo perfesso se gli ho detto. Ciao. Magari costano anche poco quegli apparecchi lì. Ma è di più in button, di più della 27 o di meno? No, non è che vale tanto bene, capito? Non è che copro tutta Sassari quegli apparati lì comunque. Cosa cazzo di l'hanno fatto? Era meglio 27, era più coperto, capito? Quindi da Bertolatti era aperto tutti i posti, era un buon punto, capito? E ne hanno uno in via Turati e uno in via Catalocchino, ne hanno di apparecchio. Esatto, sì. E vabbè, poi c'erano due in moto carrozzella. Allora, è come un'echeggia. Ah, non entriamo noi qua, che... se lo ripasso vicino, quello lì attaccato non rientro a lui. No, non mi fa niente. Non ho capito adesso. Parlata di Godoga. E poi me lo procuro uno qualche giorno. Posso provare qualche tassista che non lo sta più usando? Capito, di Velenante magari. E te lo fai dare, magari te lo regala pure, mi dà la palazzo, niente di strano. C'era uno di quelli, 43 mega, se gli ho modificato io, quello che c'ha, il meccanico vicendere Paolo Torres, che lavora dove vendono le auto, lavora, capito? Che era un amico di Giancarlo, me l'aveva portato, ma poi mi sono divertito con quell'apparato lì, Reggio Biliardo mi ha portato sano e gli ho riportato tutto quanto modificato, gli ho portato. Che adesso sai quanto è salito? 999 canali, mi sono messo le mani in testa, e che non c'avevo un frequenzimetro, se no ti avevo detto da che frequenza partiva la frequenza, da che frequenza finiva, perché 999 canali sono parecchi lì. Se il 43 minimo saliva il 45 e scendeva in 42, 40, qualcosa del genere. Allucinante, cara. Allucinante. No, non ho mai avuto, non ho, ma sicuramente però c'è un Biattinocchi da sensazionare un bel. Non penso che vada tanto bene. No, già l'ho provato io, la matta già usciva. Con l'accordatore d'antenna, sai come ti scia. Ma il raccordatore non nasce, non ti vuoi andare? E si busca un raccordatore piccolino da mettere con lo smetto, non è quello il problema. Non costa la volta con lo smetto accordatore. Se ne metti uno che accordi intorno a quella frequenza lì, vedrai come esce. Scappa. Sì, già, andava. Non so, ma non sono come quelli della mente, sono diversi gli accordatori. Beh, logico, è diverso, la frequenza è 43, non lo so io. Dalla 27 a 43 mega ti sei una bella differenza. Già, non so, Guglia. È appunto per quello. Già, diamolo già, lo so già. Vale. No, ma capo, se tu le guardi le antenne sembrano precise, invece no. Addirittura mi pare che un metro di meno, mi pare che, o due, un metro e qualcosa. Sì, sono un po' più corta, insomma. Non mi ricordo se la lunghezza giusta, comunque la bobina è uguale, lo stilo altrettanto, lo cambia solamente l'altezza. E quella della 27 è più alta, quella lì è più corta. E ce la fai di vego, sì, Che infatti, hai visto quella che c'hanno in via Catalocchino, quella della lì? È quasi uguale a quella della 27, è un pochettino più corta. Già lo so, già lo so. Sì, ma se uno che le conosce già, già si napizza di qualche cosa di diverso. Sì, vabbè, e poi in pratica le frequenze omologate di una volta che si usava, capito? Quindi c'era anche le ambulanze, ce l'hanno, c'era le ambulanze quelle che sono via della Feroce all'ingresso, c'erano quelle antenne a 43 MHz lo stesso. No, non le stanno più utilizzando. Vabbè, adesso c'è un 118 salina tutti, ormai ti chiamano come si chiama, prendi e rispondi, non c'è bisogno di, a meno che non tengano la frequenza per parlare tra come si chiama, vabbè, fuce il telefono, non gliel'ho fatto un cazzo la verità, cioè parlare dall'ambulanza e parlare con la base non te ne fotte più niente, ormai usano i telefoni. Cappa, quello lì lo sai, se è quella che è, quella del Cison c'era una volta, poi altra associazione, ma non ne ho più una mai. Comunque, quella frequenza lì già c'è ancora, cioè la sto usando ancora utilizzando, solo lì, quelli là basta Sassari perlomeno, poi non so se non ho più visto apparecchi in vendita di quelli, la verità, non l'ho più visto. Quindi evidentemente non lo stanno più costruendo su 43 MHz. ha detto ci saranno, io avevo visto le antenne un po' di tempo fa, avevo visto. Poi non lo so, gli apparecchi. No, apparati non l'ho più visto in verità, prima li pubblicizzavano, adesso non l'ho più visto, manco la GBC. Quindi che ce li ha solo per... perché li avevano comprati parecchi anni fa, avevano fatto, avevano omologato quella frequenza lì per utilizzarlo per pesca, caccia, eccetera, eccetera, attività, capito, tipo quella della 27. Come prima si faceva per dire, ti prendevi un apparecchio omologato, e c'avevi 9 canali sotto, e, tutti, e gli altri ce l'avevi normali, capito? Me lo ricordo. Così era. No, dovrei guardare su internet se ce ne sono, in vendita, o nuovi o vecchi. Non lo so, io lo ripeto, avevo visto un po' di tempo fa sono le antenne, ma gli apparecchi non lo so. Vabbè, vabbè, vabbè, ma mai usa, si usa il telefono, già lo sai che tu. Lo usi anche tu il telefono, non è che ti metti l'antenna come facevi prima nel, lì e poi la, la stazione fissa la, la facevi dove lavoravi tu, hai capito? Ormai usi il telefono e chiami lì, eccetera, o ti chiama il tuo principale. Sì, sì, no, non si tratta di più queste cose, oramai. Sai l'unica cosa che puoi usare, che forse ti conviene di più, a posto di fare la telefonata, dato non c'è neanche un cane, mi ti scarichi, mi dà la cibità che ti metti in, in quel canale lì, hai capito? E lo usi per, le, per quella storia lì, e te ne spatti le palle, non paghi né, né concessione né nulla, non fai altro di chiamare e poi ti risponde, altro fa tutto, fate il tachilometro, ha voglia. Ha voglia, va bene. E se c'è due al mic anche 100. C'è, vabbè, due mic costa 120 euro. Ti prendi due mic, non fai altro che accenderlo e parli tranquillamente col Bluetooth, non devi toccare niente. Lasci il telefonino appeso dentro alla, come si chiama, la cabina, poi naturalmente la lì lo stacchi, non è che lasci il telefono dentro, dentro la motocarrozzella e lasci la motocarrozzella aperta, no? Hai capito? Già, ma già lo so già. Oh, dice si può utilizzare anche il 27. Chissà com'è, perché c'è anche il capo per attaccare al baracchino. Chissà com'è esce con questo dual mic. Il 27, a me qualcuno mi ha detto che va benissimo, mi hanno detto, poi non lo so, e nel telefono vedo, noi ce l'abbiamo avuto, me. Già lo so che l'avete avuto, quindi, a voi conviene per usare il telefono e così e basta, hai capito, senza usare manco baracchino, a me non c'è il problema dell'antenna ai mezzi piedi. Devi stare a, a controllare l'apparecchio, non sai che ti sparisca dentro la, a come si chiama, ti porti il telefono appresso, ti metti le, l'applicazione, quando una volta che hai consegnato la bomba, prendi, lo richiami, dove devo andare adesso, lui ti dice vai in tutto via e portala di lì, hai capito, e fai prima. No, no, ma noi già ci telefoniamo, facciamo prima a telefonarci, facciamo prima. Oh, yeah. Dai, Ale, io mi corico, sono un bel stanco, sono a pizzica, ma ne gribato oggi. Dai, buonanotte, ce la risentiamo alle prossime, dai. Ehi, ciao, domani, stai bene, buonanotte, Anto. A domani. Ciao ciao, che poi ci sentiamo con più calma, cazzo di mano ingribato. Ciao, buonanotte, ciao ciao. D'accordo, ciao ciao. Buonanotte.